Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. Il buongiorno vi viene anche da Riccardo Poli, che è in redazione con me, e da Mauro De Angeli, che è alla parte tecnica. Le coordinate 349-238-6666 per le vostre domande, le vostri suggerimenti o commenti via SMS, la mail nessunluogo@radio24.it, e poi ci trovate alla pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano. Oggi vi racconto una storia. Vi racconto la storia di un feroce combattente, nato nel 1947 in Russia. Nel 1956 è già operativo a Budapest durante la repressione, e poi nella giungla del Vietnam contro gli americani, e ancora in Cecenia contro i russi, e poi in Iraq tra le file del nuovo esercito. La sua carriera è fulgida e ricca di vittorie. Questo combattente è in grado di muoversi tra i ghiacci, nelle foreste, non c'è acqua o fango che possa fermarlo. È efficiente, terribilmente efficace. Oggi vi racconto la storia del fucile d'assalto AK-47, il Kalashnikov. Il Kalashnikov è un'arma senza frontiere in mano a miliziani regolari di mezzo mondo. Un'arma che il suo stesso creatore, il sergente Mikhail Kalashnikov, chiamò Golem, la mostruosa creatura della mitologia Yiddish. Che cos'è il Kalashnikov? Come ha cambiato il nostro mondo? È davvero l'arma di distruzione di massa? Andrea Nativi, direttore della rivista italiana di difesa. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi. Allora, che cos'è il Kalashnikov? Beh, il Kalashnikov è l'arma leggera che ha reso economicamente sostenibile la guerra un po' ovunque, perché costa poco, funziona sempre e non richiede molto addestramento. Allora, capiamo meglio come è nato e che cos'è il Kalashnikov grazie a questa scheda. La K-47, comunemente noto come Kalashnikov, è un fucile mitragliatore progettato nel 1947 da Mikhail Kalashnikov, allora sottufficiale dell'Armata Rossa dell'Unione Sovietica. Secondo le stime ufficiali, non meno di 50 eserciti regolari lo usano come arma d'ordinanza. Oggi è fabbricato in Russia e nei paesi dell'ex patto di Varsavia, ma trova una grande diffusione anche in paesi come Cina, Egitto, Israele, Corea del Nord e India. Uno dei motivi della proliferazione del suo utilizzo fu la fine della Guerra Fredda. Milioni di pezzi in dotazione agli eserciti diventarono inutilizzati e finirono sul mercato. Dalla data della sua invenzione ne sono stati venduti circa 100 milioni di esemplari. Il successo del Kalashnikov è dovuto ad un mix di caratteristiche che lo rendono una perfetta arma d'assalto. È particolarmente leggero, 3,8 kg senza cartucce, 4,3 carico. Non ha un rinculo violento, è affidabile, sicuro e maneggevole. Non si inceppa, è smontabile in 8 pezzi e componibile in 50 secondi. Proprietà che lo rendono facilmente nascondibile e trasportabile nel mercato nero. Il suo costo ridotto, circa 16 dollari in Iraq contro i 3.000 della Colombia, lo rende appetibile anche per gli eserciti irregolari in particolari paesi. Unisce i vantaggi del mitra a quelli del fucile. Spara a raffica colpi che possono arrivare lontano, a una distanza di 300 metri. A livello teorico ha una capacità di 650 colpi al minuto, con proiettili che viaggiano ad una velocità di 700 metri al secondo. Dopo lo sparo, una parte del gas che si forma con l'esplosione è recuperata attraverso uno sfiatatoio per ricaricare automaticamente l'arma. Il sistema di presa di gas è posto poco oltre la metà della canna, che misura circa 414 mm. Spesso ai lati sono presenti 4 fori per lo sfogo della sostanza in eccesso. La sua efficacia è data dalla semplicità e funzionalità del meccanismo di sparo, basato sull'azione di 3 denti d'arresto e azionati automaticamente dal grilletto. È l'arma più diffusa tra guerriglieri, terroristi e milizie del terzo mondo, e i bambini riescono ad usarlo facilmente, con effetti devastanti. Il Kalashnikov, il fucile del popolo, come titola Michael Hodges in un suo saggio che lo descrive con grande dettaglio, il fucile delle rivoluzioni, è il fucile che noi tutti vediamo nelle immagini provenienti ad esempio dalla Libia, è quello delle triste immagini della guerra nell'ex Jugoslavia, è quello del Vietnam, è quello dell'Iraq, è il fucile più diffuso al mondo. Che cosa, Andrea, lo ha reso così fortunato nella sua carriera? C'è un fattore, c'è un elemento? Io direi la scelta del calibro, che sicuramente è stata centrata. È un calibro intermedio, che è un calibro abbastanza potente da consentirne l'uso a distanze significative, tatticamente significative, e al tempo stesso non è così micidialmente pesante da limitare il numero delle cartucce che ci si porta dietro o da renderlo problematico perché è troppo forte la forza di rinculo che scarica. Poi meccanicamente è talmente semplice che è a prova di, vorrei dire, di idiota, per cui chiunque può utilizzare un Kalashnikov in maniera decente dopo poche ore di addestramento. Ecco, queste sono le caratteristiche essenziali. Se non è a prova di idiota, sicuramente è a prova di bambino. Io l'ho incontrato qualche volta nei miei viaggi, nei miei reportage. L'ultima volta era appunto in Libia, dove gli addestramenti dei ragazzi che abbracciavano la rivoluzione, anche molto giovani, dura pochissimi giorni, e in effetti, insomma, conferma quello che dicevi tu. L'altro aspetto è che mi ha veramente impressionato fortemente è quanto riesca a resistere anche in condizioni incredibilmente avverse. A novembre eravamo in Congo e un camioncino si era arrestato, era in mezzo al fango, c'erano tre militari in questo camioncino. Ebbene, non essendo dotati di pala, di vanga per togliere il fango dalle ruote, usarono il Kalashnikov con la baionetta montata, come se nulla fosse. Ma in effetti è vero, no Andrea? Cioè, questo fucile riesce a sparare anche se bagnato, anche se pieno di polvere, di fango. E questo è l'ideale, e infatti se ne accorsero loro malgrado gli americani, che avevano in Vietnam un'arma molto più sofisticata, l'M16, che però richiedeva un kit di pulizia e manutenzione costante. Gli avversari invece avevano il Kalashnikov, che era pieno d'acqua, di fango, di terra, di detriti. Funzionava comunque, e questa è la cosa ideale per un'arma che deve essere impiegata anche da eserciti di guerriglia o con la personale poco addestrato. Con due attrezzi lo metti a posto, e poi comunque costa talmente poco che se anche lo rompi oppure si deteriora, la canna per esempio viene snervata dall'uso troppo intenso, si butta e se ne prende un altro. In effetti, in alcune zone dell'Africa ho potuto constatare come con dai 30 ai 50 dollari si riesca ad acquistare un Kalashnikov, magari non nuovissimo. Addirittura alcuni colleghi hanno fatto uno scambio in Congo un paio d'anni fa, lo hanno scambiato per un cellulare, un vecchio cellulare, insomma. È vero anche una cosa, che in Congo vedi, dico il Congo, ma perché è uno degli ultimi esempi che ho potuto sperimentare di persona, vedi Kalashnikov vecchissimi, col calcio di legno consumato, e ti immagini che magari abbiano già sparato in Afghanistan, ma non è un'lucubrazione, cioè può essere, no Andrea? Sì, ma un'arma leggera di per sé, se viene tenuta decentemente, mezzo secolo lo fa tranquillamente. Ricordiamoci, i nostri soldati di leva anni e anni fa avevano il Beretta BM59, che altro non era che un Garand, anche quello veterano Seconda Guerra Mondiale e Corea, convertito dalla Beretta in fucile d'assalto. Quindi se viene tenuto decentemente l'arma è eterna, dipende da quanto si usa. Il Kalashnikov poi in particolare è stato prodotto in talmente tante versioni e sottoversioni e in diverse generazioni. Adesso per esempio quello che usa l'esercito russo non è certo quello che trovi tu in Congo, sì. Lì trovi degli AK-47 magari di prima generazione, oppure le copie cinesi o cecoslovacche. La seconda generazione, per intenderci quella che è famosa, del Mitra Krinkov, la versione corta del Kalashnikov, la K-74 che aveva Bin Laden, ecco, quella è già un'arma di seconda generazione, lo distinguete perché ha il caricatore di quel colore rosso brunito in plastica rispetto a quello metallico originale. Ecco qua, Andrea, ti stai addentrando in commenti, insomma, in sottilezze estetiche che io faccio fatica a seguire, insomma, il colore del caricatore, però abbiamo capito che esistono varie versioni. Hai accennato ai video di Osama Bin Laden, perché il Kalashnikov ha in qualche modo un valore simbolico, e nel libro che citavo prima di Michael Hodges questo aspetto viene esaltato particolarmente. Il Kalashnikov è raffigurato ad esempio nella bandiera del Mozambico, è stato celebrato in alcuni film. Michael Hodges dice che in qualche modo questo fucile del popolo possiede un'aura magica. In un'intervista che lui fa a un combattente palestinese, gli dice: stai attento perché una volta che impari a sparare con questo fucile ti porterà lui al fronte. E Kalashnikov ha una forma inconfondibile, appunto nei suoi video Osama Bin Laden lo imbraccia. Io ricordo alcuni combattenti dell'Iraq che ho intervistato qualche tempo fa, mi parlavano della K-47 come dell'arma perfetta, gli brillavano gli occhi quasi, no? A dire adesso ti facciamo vedere i nostri fucili. E in Lord of War, un film statunitense che racconta del traffico di armi internazionale, c'è un ispirato Nicolas Cage che lo celebra così. Di tutte le armi nell'immenso arsenale sovietico, nulla era più remunerativo dell'automat Kalashnikova, modello del 47, più comunemente conosciuto come la K-47 o Kalashnikov. È il mitra più popolare del mondo, un'arma che tutti i combattenti amano, un'amalgama di 4 kg d'acciaio e legno multistrato. Non si rompe, non si inceppa né si surriscalda. Spara se è coperto di fango o pieno di sabbia. È così facile da usare che anche i bambini possono farlo, e spesso lo fanno. I sovietici hanno messo l'arma su una moneta, il Mozambico l'ha messa addirittura sulla bandiera. Alla fine della guerra fredda il Kalashnikov divenne il prodotto russo più esportato, prima della vodka, del caviale e dei narratori suicidi. Una cosa è certa, nessuno si metteva in fila per comprare le loro automobili. Questa era in qualche modo un'apologia che un trafficante di armi ovviamente faceva di un pezzo mirabile come la K-47, che è smerciato in tutti i modi in mezzo mondo, imbracciato da milizie e da eserciti regolari con gli ideali più diversi. Abbiamo accennato, abbiamo parlato del Congo, dove il fucile ha anche delle gravissime conseguenze sulla struttura sociale. E c'è un racconto che ci fa Luca Giurdan, che è un antropologo dell'Università di Bologna che ha lavorato a lungo in Congo, e chi ci segue lo ha già sentito in una scorsa puntata, e ci fa così il tratteggio di Muindo, la storia di un ragazzo e della sua arma. Muindo si è arruolato quando aveva 14 anni, a scuola non ci andava, la scuola non esisteva più, il governo non pagava più i militari, a casa aveva difficoltà a mangiare, allora ha deciso di imbracciare un Kalashnikov. È entrato nelle milizie Mai Mai, perché le milizie Mai Mai controllavano il suo villaggio e vedevano che loro mangiavano e vivevano al sicuro. Quando è entrato gli diedero quindi un Kalashnikov, e con questo Kalashnikov Muindo è poi riuscito a mangiare, a vivere e a proteggersi. Il Kalashnikov ha dato a Muindo quello che non aveva altrimenti. Gli ha dato un ruolo, gli ha dato uno status, quello di combattente, quello di uomo forte, e soprattutto gli ha dato la possibilità di sopravvivere in un contesto dove la violenza la faceva da padrone. E questo è uno dei devastanti effetti dell'aver inventato e di aver prodotto un'arma come questa, così facile da usare, così disponibile, costa così poco, che appunto anche un ragazzo alla fine utilizza questo mezzo così distorto, no? Così benefico per sopravvivere. Tant'è che Giurdan ci spiega ancora come il fucile diventa quasi una parte del bambino soldato. Il Kalashnikov diventa un tuo compagno di vita, perché non ti abbandona mai, perché funziona sempre, è facile da usare, non si inceppa, rispetto a tutti gli altri fucili è veramente un compagno affidabile che non ti tradisce, lo trovi ovunque, lo si trova poco, a $50 puoi avere un Kalashnikov e quindi con $50 tu ti puoi procurare un tuo mezzo di sussistenza con cui sopravvivere nell'est del Congo. E allora come si rompe questo diabolico e vizioso vortice in cui tu usi un'arma per prenderti da mangiare in Congo? Ancora Luca Giurdan. Per abbandonare il Kalashnikov, Muindo avrebbe bisogno di una scuola, avrebbe bisogno di un lavoro, avrebbe bisogno che lo Stato congolese tornasse a funzionare, che gli garantisse la sicurezza, che garantisse che le milizie non siano più in giro nel suo villaggio a torturare, a saccheggiare, a stupare le donne. Solo grazie a questo ritorno di normalità Muindo potrà ritornare a fare il bambino, potrà tornare a scuola e gli adulti potranno ritornare a fare gli adulti, ovvero a guidare e a proteggere i loro bambini. Perché una delle conseguenze incredibili del possesso delle armi, di un'arma così facile, così diffusa, è che anche i rapporti sociali vengono ribaltati, i rapporti di forza. Quello che una volta era il saggio, il capo, era il vecchio, anziano, disarmato in un villaggio, viene in qualche modo ribaltato da quel ragazzino che ha imbracciato il Kalashnikov. Muindo, grazie al Kalashnikov, è diventato grande, è diventato un uomo forte. Prima erano più vecchi a guidarlo, a comandarlo, adesso è lui a comandare, a guidare i più vecchi. L'altro giorno è entrato in un villaggio è entrato in una casa, ha fatto inchinare di fronte a lui, puntandogli il Kalashnikov, il vecchio del villaggio, e gli ha rubato ciò che aveva nella sua casa. Grazie a questo Kalashnikov i rapporti di forza in Congo si sono invertiti, i bambini diventano adulti e gli adulti sono costretti a diventare bambini. Non solo questo è un esempio delle trasformazioni anche sociali della violenza che una società appunto si trova costretta a vivere quando c'è una presenza di armi così massiccia, lo abbiamo visto anche in Libia quando i ribelli si sono impossessati degli arsenali del Rais e alla fine tu puoi vedere che a Bengasi, a Brega, a Ras Lanuf, insomma nelle città in cui si combatte e non tutti imbracciano un Kalashnikov. Nessun luogo è lontano. Ancora una buona giornata, gentili ascoltatori. Oggi a Nessun Luogo è Lontano stiamo cercando di raccontarvi la storia di quella che forse è la vera arma di distruzione di massa del secolo scorso e di questo, il Kalashnikov, il fucile AK-47, quello ideato da un sergente dell'esercito russo, Mikhail Kalashnikov, dopo che sul fronte, racconta lui, vide gli effetti dell'avanzata tedesca, dell'avanzata fascista nazista nel suo territorio e decise che insomma i russi dovevano dotarsi di un'arma almeno pari a quella che i nazisti tedeschi imbracciavano. In realtà Andrea Nativi, direttore di rivista italiana di difesa, il Kalashnikov viene proprio come origine da un'arma tedesca, o mi sbaglio? Eh sì, è proprio così. Anche in questo caso la tecnologia tedesca era più avanti. Avevano inventato lo Sturmgewehr, che era un fucile d'assalto costoso e sofisticato, e dal quale i russi hanno mutato, anche se non la metteranno mai, moltissimo il meccanismo di scatto, in parte lo stesso caricatore a banana tipico. Quindi sì, Kalashnikov ha visto sul campo di battaglia e anche visto e ha avuto per le mani le armi tedesche alle quali ispirarsi, solo che in questo caso i russi hanno superato i maestri tedeschi che facevano armi fantastiche dal punto di vista tecnico ma che costavano un'ira di Dio e non erano riproducibili in massa. Hai parlato di massa, hai parlato di grandissimi numeri, in effetti del Kalashnikov ne esistono, si dice appunto 70 milioni di pezzi, 100 milioni di pezzi in giro per il mondo. Torniamo in Congo con la voce di Luca Giurdan che ci spiega appunto com'è possibile che in Congo si trovino ancora fucili ancora perfettamente funzionanti e vecchi di decenni. Il traffico delle armi, si potrebbe dire con questa metafora, le vie del Signore sono infinite. In Africa a partire dagli anni 90 abbiamo una serie di conflitti che si sono risolti, pensiamo al Mozambico, ma chiaramente gli arsenali non sono spariti ma sono stati rivenduti e quelle guerre e quelle armi continuano a combattere, come ad esempio in Congo. È collato il regime etiope e tutte queste armi sono defluite in Congo e poi continuano ad arrivare dall'est Europa, dall'Asia. Il rifornimento di queste armi leggere è incessante ed è estremamente difficile da controllare, proprio perché sono leggere, si possono nascondere con facilità e quindi disarmare queste regioni è un'opera assai ardua, assai difficile. È difficile anche perché vi sono delle isole impenetrabili in Africa, io penso all'Eritrea che è un paese praticamente off limits a noi giornalisti, dove è veramente difficile entrare, dove parecchie armi girano da decenni, dove ci sono interessi, vengono armati gli Al-Shabaab ad esempio nella vicina Somalia. È un traffico quello di armi che rende tantissimo, che coinvolge moltissimi attori e che l'intelligence di tutto il mondo fa veramente fatica, anche per i motivi cui accennava Giurdan. È un traffico sotterraneo, il fucile si smonta, ci sono vie che come dire le polizie di tutto il mondo faticano ad accedere. Ma ora vi porto nei Balcani, dove il traffico di armi è stato ed è ancora fiorente e ha molteplici risvolti anche culturali. Così Goran Bregovic celebrava quest'arma in maniera scherzosa, però come dire anche la canzone sottende in qualche modo una sottocultura di celebrazione dell'arma, un simbolo di forza, di potenza in quella zona. Allora cerchiamo di capirne di più con Cecilia Ferrara, giornalista, corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso e autrice del volume Narconomics. Cecilia, buongiorno. Buongiorno. Allora, vediamo, la linea è forse un po' disturbata, cercavamo di capire, Cecilia, come sia possibile che un'arma diventi in qualche modo un simbolo anche di una cultura. Allora, il cambio della... Cecilia, ti interrompo perché la linea è veramente pessima, per cui adesso ti richiamiamo, ci rimettiamo in collegamento con te, torno invece ad Andrea. Andrea ha questa forza comunque strana, no? Questa forza suggestiva a sua dente, questo fucile che viene addirittura celebrato persino nelle canzoni, ma perché? Perché è l'arma per antonomasia. La usano tutti, la usano, è micidiale, oddio micidiale, diciamo va bene come arma per uso generale, ma è difficile colpire qualcosa nel tiro mirato col Kalashnikov sopra i 200 metri. Anche sotto, perché ho testato personalmente questa cosa in Libia e credo che il cecchino fosse a circa un centinaio di metri, per fortuna non mi ha centrato, ecco, quindi confermo. Guarda, non era un gran cecchino, no, per fortuna. Non ti ha preso. Per fortuna. Però c'è da dire che soprattutto se usato nel tiro a raffica, chi spara, capita sparare col Kalashnikov, nel tiro a raffica proprio non prendi quasi niente, devi allora fare saturazione. Si vede spesso nei filmati televisivi il guerrigliero, sì, che si sporge, sì, e spara, ecco, quando fanno così spruzzano proiettili ma non colpiscono assolutamente niente, fanno un po' di rumore e disturbano. Tra l'altro ecco, la voce del Kalashnikov è particolare, in qualunque conflitto quando qualcuno spara con il Kalashnikov, soprattutto delle prime generazioni, lo riconosci subito. Sparando a colpo singolo funziona meglio e devo dire che scalda da brutto. Ecco, la scheda che avete detto, sì, che leggeva Nicolas Cage, va tutto bene tranne sulla temperatura. Se qualche fesso non tiene la mano sotto la canna, la protezione in legno, nei primi modelli, e gli viene da aggrapparsi fortemente mettendo le dita sopra la canna, dopo due caricatori diciamo che la mano rimane attaccata alla canna perché la temperatura è micidiale. Ecco Andrea, tra gli SMS e gli ascoltatori c'è Marisa che ci chiede chi produce gli AK-47, tantissimi paesi in realtà, certo, o no? Anche illegalmente, tra l'altro i russi sono furibondi perché sono tutte copie illegali. Ma esiste un brevetto, Andrea, scusami se ti interrompo. Sì, esiste un brevetto del quale tutti si infischiano, perché il brevetto fu depositato, Kalashnikov sarebbe stramiliardario se gli avessero dato un dollaro per ogni arma prodotta, però l'ha fatto generale in compenso, eroe, sì, dell'Unione Sovietica. Tra l'altro no, non so se sai che esiste una vodka Kalashnikov, per cui questo brand che è stato creato ha poi dato luogo insomma a tutta una serie di prodotti derivati. Allora abbiamo ristabilito il collegamento con Cecilia Ferrara, che è giornalista e corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso e autrice del volume Narconomics, a cui riprovo a fare la domanda: com'è possibile che un'arma diventi anche un simbolo di una cultura, a me verrebbe da dire insomma una sottocultura? Diciamo che, buongiorno intanto, è un po' il simbolo di quello che è successo in Jugoslavia, ovvero con la dissoluzione della Jugoslavia e con l'apertura ai movimenti nazionalisti che propugnavano un'altra idea, diciamo così, dei popoli balcanici, l'idea di forza, di violenza, di virilità, un certo, come dire, ritorno indietro anche di culturale, ha portato sì che un'arma, in particolare il Kalashnikov, che come avete detto in molte maniere è estremamente efficiente e efficace, è diventato simbolo anche delle guerre dei Balcani e dei nuovi Balcani. Viene in mente la fotografia appunto di Arkan, che è uno dei più sanguinari, sì, paramilitari, nonché mafiosi serbi, che è quella di lui con il Tigrotto, perché il suo gruppo paramilitare si chiamavano le Tigri, e con i guerriglieri dietro di lui, tutti incappucciati e tutti con il Kalashnikov in mano. Sì, quindi una dimostrazione di forza, una dimostrazione di potenza. Accennavamo prima al fatto che comunque la zona balcanica è una zona in cui il traffico di Kalashnikov, di armi, ma anche di Kalashnikov, è piuttosto fiorente perché se ne sono stati usati tanti. Però si inserisce in un altro traffico, Cecilia. Sì, dunque appunto, finita la guerra, piuttosto che importare, la Serbia e tutti gli altri paesi coinvolti hanno iniziato ad esportare. Spesso il Kalashnikov, come altri tipi di armi, è stato usato come merce di scambio, come merce insieme alla droga visto che comunque i Balcani sono un crocevia per l'eroina che proviene dall'Afghanistan e recentemente anche per la cocaina che viene dal Sud America, di scambio e d'accordo con gruppi mafiosi italiani, dalle 'Ndrine alla Camorra alla Sacra Corona Unita. Ovviamente l'Italia è un passo dalle coste adriatiche dei Balcani e i traffici illeciti che sono passati dal canale di Otranto sono innumerevoli, appunto i principali sono armi, esseri umani e droga. Questo, il Kalashnikov ad esempio, viene fuori nella misteriosa sparizione delle armi sequestrate alla nave Jadranka nel 94 e custodite nella base militare della Maddalena. 30.000 Kalashnikov furono sequestrati insieme a numerosi altre armi. Comunque appunto viene utilizzato anche in Italia proprio per questo canale. Tu fai riferimento poi a quel carico di armi che poi è sparito? Sì, misteriosamente sparito, insomma, c'è segreto di Stato, quindi insomma questa partita di Kalashnikov non si sa bene dove sia andata a finire. E poi c'è un aspetto di questo fucile così diffuso, entra anche nelle città, perché anche i delinquenti, no? Anche la delinquenza comune, le rapine, quelle più efferate, a volte insomma ci sono delle bande criminali che utilizzano il Kalashnikov. Sì, viene spesso trovato nei sequestri effettuati dalla polizia, spesso anche in Europa, sia in Italia che in altri paesi europei, come arma utilizzata da bande di criminali ex jugoslavi che fanno sia dal traffico di droga che da rapine o comunque altri crimini comuni, e anche questo è un po', come dire, una conseguenza della guerra e quindi anche un sottoprodotto delle guerre in ex Jugoslavia. Ricordiamo anche un'altra cosa, la crisi delle finanziarie nel 97, la semirivolta che ci fu in Albania, che portò all'assalto degli arsenali del governo, insomma dell'ex regime di Enver Hoxha, dove c'erano circa 1 milione di Kalashnikov di produzione cinese, e anche quelli rientrarono pienamente nei traffici, in particolare in quel momento verso il Kosovo che si stava preparando alla guerra, quindi appunto verso l'UCK, sì, l'esercito che si stava formando per combattere i serbi. Sì. Abbiamo parlato di queste copie cinesi dei Kalashnikov. Andrea Nativi, direttore rivista italiana di difesa, la copia cinese del Kalashnikov funziona bene quanto quella russa o ha dei problemi? Ovviamente i russi dicono che ne è inferiore all'originale, in realtà funziona abbastanza bene, anche gli jugoslavi avevano la loro copia, faceva la Zastava ed era una copia migliore, poi ci sono anche le copie migliorate perché qualcuno bravo aggiunge qualcosa, però devo dire che due fattori bisogna che teniamo conto, che quando parliamo di traffico d'armi, attenzione, questo è un traffico di livello basso, perché con i soldi che costa un singolo aereo da combattimento, come quello che si è comprato adesso l'Uganda, ecco per intenderci, sì, Sukhoi 30, e ci armi due eserciti e fai guerriglia per 3 anni in Congo, ecco, teniamo conto di questo. Un aereo, le armi leggere hanno un altro tipo di canali, un altro tipo di trafficanti. La seconda cosa che volevo dirti è che sta un po' passando di moda, nel senso che adesso gli eserciti, anche quelli non di primissimo rango, vogliono armi un po' più alla page, per cui sia gli afghani, per esempio, sia gli iracheni, se possibile, vogliono l'M4 americano, che poi non lo sappiano usare in maniera altrettanto efficace, questione di prestigio, vedi, cambiano anche i simboli, prima il Kalashnikov, adesso l'M4. Nessun luogo è lontano. Il Kalashnikov, gentili ascoltatori, l'arma delle rivoluzioni, l'arma del popolo, l'arma che vedete in mano ai ribelli libici, che avete visto nei film, forse l'arma più raccontata al mondo, 70-100 milioni di pezzi che ancora girano, ancora sparano, forse la vera arma di distruzione di massa del secolo scorso e di questo secolo. Cecilia Ferrara, giornalista, corrispondente Osservatorio Balcani e Caucaso e coautrice del volume Narconomics, ci stava raccontando come la zona balcanica fosse in qualche modo un crocevia per questo traffico. Cecilia, è possibile quantificare, dare un ordine di misura di quanto renda un traffico di fucili come il Kalashnikov? Perché giustamente Nativi ci stava spiegando come costa poco il Kalashnikov, quindi quanti pezzi devi smerciarne per fare business, tu che sei un trafficante, mentre alla fine un aereo ha un valore totalmente diverso. Come possiamo dare un metro a questo mercato balcanico del Kalashnikov? È possibile? Ma dunque, premesso che queste misurazioni sono sempre abbastanza difficili da fare in maniera precisa, ma si possono fare i conti della serva, insomma, 1 milione di Kalashnikov solo in Albania moltiplicato per 100 euro l'uno, vengono delle cifre comunque di notevolissima entità. Si possono vedere da alcune inchieste, un'ultima inchiesta all'inizio degli anni 2000 che coinvolgeva un trafficante d'armi serbo che tra l'altro comprò dallo Stato albanese le munizioni per armi leggere, fra cui anche Kalashnikov. In quell'inchiesta la polizia parlava di un traffico di 100 milioni di euro ed è una. Sì. Quindi queste sono le cifre appunto che si possono dire senza tirare a caso, sì. Diciamo così. Sicuramente per difetto. Però la quantità e la facilità anche probabilmente di vendere questo strumento lo rende comunque un ottimo affare. Grazie. Dunque, allora, Cecilia Ferrara, per il tuo contributo, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a voi. Andrea Nativi, oggi a Nessun Luogo Lontano stiamo raccontando la storia di questo fucile, la cui storia appunto assume anche i contorni della leggenda. Leggendo il libro di Michael Hodges, Kalashnikov, il fucile del popolo, si racconta addirittura che Mikhail Kalashnikov, pare gli venga attribuito l'abbattimento di un elicottero addirittura con questo suo fucile. Insomma, girano poi leggende di tutti i tipi che hanno fatto sì che comunque questo fucile avesse un'aura, finisse nelle bandiere, finisse nei video di propaganda dei terroristi, insomma diventasse in qualche modo anche un simbolo. Quando questo simbolo è destinato a scomparire? Quando il Kalashnikov concluderà la sua benefica carriera? Un po' ce l'hai già detto, perché insomma ci sono armi americane più sofisticate che anche gli iracheni, anche gli afghani vorrebbero. Io direi che tranquillamente passerà i 100 anni il Kalashnikov originario, perché da qualche parte qualcuno lo continuerà a usare. Parlavo prima di generazioni di Kalashnikov. Il Kalashnikov attuale, il modello 101, e tra l'altro lo vedete, quando lo vedete in giro è nero, brunito, c'è il calcio in polimeri, più in legno, eccetera, eccetera. Beh, quello lo vedremo in giro ancora per secoli, però quello originario ormai si avvia a fine carriera, almeno negli eserciti di prima linea. Ci sono armi decisamente più efficaci che per esempio possono cambiare il calibro a seconda della situazione, si sostituiscono alcuni elementi e si passa da un calibro piccolo, un po' più piccolo di quello del Kalashnikov, il 5.56x45 americano, al 6,8 che usano adesso le forze speciali americane, fino al 7,62x51 potentissimo della NATO, che però in Afghanistan va bene, perché se devi tirare sopra i 400 metri, ecco, il Kalashnikov comincia a apparire un po' deboluccio. Sì. Ma Andrea, è vera questa cosa che si legge ogni tanto, che le truppe americane lasciano il loro fucile e vogliono il Kalashnikov perché in certe situazioni è meglio, perché non si inceppa, perché è superiore, o una leggenda? Beh, diciamo che se sì, no, è vero, è accaduto più volte e questo infatti ha fatto imbestialire parecchio il Pentagono. Per due motivi avviene: per i soldati regolari che scoprono che il loro 5.56 è troppo poco potente per fare a fucilate contro un talebano che ha il vecchio Kalashnikov 7.62x39, è una prima situazione. La seconda situazione è quando per esempio reparti delle forze speciali devono lavorare dietro le linee, come è accaduto nel 2001 con l'Alleanza del Nord. Ecco, non è che loro possono andarsi a spasso con i loro... Certo, sarebbero riconoscibili immediatamente. E quindi mentre si fanno crescere i barboni, si mettono la kefia, si mettono il pakul sulla testa, ebbene prendono anche il Kalashnikov. Insomma, l'utilizzo l'arma del nemico per una mimesi, insomma, per essere più camaleontico. Allora, grazie Andrea Nativi per il tuo contributo, direttore rivista Italiana Difesa, grazie, buona giornata, buon lavoro. A voi, arrivederci. Questa è l'incredibile storia di un'arma che ha cambiato le sorti di parecchie guerre, di parecchie battaglie, che è finita in mano anche a chi non doveva impugnare un'arma come questa, un'arma che davvero ha scritto pagine di storia. E l'avete visto nei servizi sicuramente delle TV italiane e straniere nella guerra in Libia, spessissimo i ribelli utilizzano appunto il Kalashnikov. Sono loro, i giovani libici, gli Shabab, per loro il Kalashnikov è l'arma principe. The key battle right now is for Zawiya, street by street. Capture the town and the rebels will cut off Tripoli. Gaddafi forces are hitting back hard. To the east as well, the rebels are taking casualties as they fight for Brega's oil terminal. The towns suffered weeks of fighting back and forth. E questa è la situazione in Libia, che è un po' complicata, cerchiamo di fare chiarezza. Innanzitutto c'è un no comment dell'ex premier francese Ville Pen, dice: non posso riferire cosa si sono detti gli emissari di Gheddafi e quelli dei ribelli a Gerba in Tunisia, dove pochi giorni fa si sono incontrati. Lo sapete, ormai l'offensiva, la tenaglia dei ribelli si sta stringendo su Tripoli, quindi anche la diplomazia si sta muovendo, ma si muove sotto banco per non compromettere eventuali esiti. Un dato è certo, molti uomini di Gheddafi vorrebbero l'esilio politico, pare, in Francia. Questo è il primo capitolo. Il secondo è che la raffineria di Zawiya, che è una città chiave vicino a Tripoli, 50 km circa a occidente di Tripoli, è nelle mani dei ribelli. Non lo dicono loro, perché ormai lo sapete, non bisogna fidarsi dei proclami dei ribelli, ma lo dicono dei colleghi sul posto. E poi il terzo punto, pare che decine, centinaia di civili stiano lasciando Tripoli, e un portavoce del Consiglio Nazionale Transitorio, Jalil, Mustafa Abdel Jalil, dice: ci stiamo avvicinando a Tripoli, ma io temo un massacro nella capitale. Allora, per capirne di più abbiamo sentito Filippo Bacciocchi, che è fotogiornalista, che è a Brega e ci ha raccontato quello che è l'ultimo fronte della battaglia per la Libia. Dalla parte industriale della città ho visto salire una colonna di fumo molto alta, la città è divisa in tre parti, una parte in mano ai ribelli, che è quella dove io sono riuscito ad arrivare, io sono dalla parte dei ribelli. Una zona che è più o meno controllata dai cecchini e quindi non si riesce assolutamente ad avvicinarsi, e quella che, quindi una zona tipo no man's land, possiamo chiamarla, e invece quell'altra ufficialmente tenuta dall'esercito di Tripoli, che è quella industriale ed è quella dei posti petroliferi. Al momento i posti petroliferi non sembrano in fiamme perché non c'è un fumo molto denso che si alza dalla città, dalla periferia. C'è invece una bella colonna di fumo, come ho detto, dalla zona industriale, che si vede anche da lontano. I combattimenti sono duri, i morti sono tanti, perché li vedo anche da fuori, da Bengasi, i funerali tutti i giorni sono decine. Ieri sera ho parlato con il generale che in questo momento controlla l'esercito in quella zona, e ci ha detto che sì, contano di prenderla. Ovviamente loro mi hanno detto il prima possibile, secondo me non prima di un paio di settimane. La città è piccola, è una città molto piccola, però fanno veramente molto lentamente, cercano di limitare al massimo le perdite, io sinceramente non capisco fino a che punto poi loro hanno una retorica di stiamo per vincere, in realtà non so fino a che punto poi. I ragazzi che vedo combattere sono veramente ragazzini. Questa è la situazione sul fronte di Brega, che è sostanzialmente a metà strada tra Sirte e Bengasi. Brega, lo sapete, Brega, Raslanuf, i centri petroliferi sono al centro di cruente e furiose battaglie ormai da mesi. Perché? Perché conquistare la raffineria significa avere introiti per milioni di dollari e quindi, insomma, potete immaginare la portata. Tripoli cade, non cade, questa fuga di civili è forse il preludio a questa tenaglia che si sta stringendo sul Raïs e sulla capitale libica. A vedere le immagini la gente sembra tranquilla. Allora, Tripoli cadrà o no? L'abbiamo chiesto a Carlo John, che è docente di studi strategici della LUIS di Roma. Ma a mio avviso no, perché se noi vediamo ad esempio al Brega le forze delle aliste continuano a combattere proprio praticamente nel golfo della Sirte, anche gli insorti di Misurata non riescono a muovere verso Tripoli, sono solamente i berberi che dalle montagne Nafula sono scesi sulle strade costiere, e strade costiere che sicuramente su cui sicuramente avveniva parecchio contrabbando di carburante. Teniamo conto che però la raffineria che è caduta nelle mani dei ribelli in cui si combatte ormai non riforniva quasi più completamente più le forze di Gheddafi. Le forze di Gheddafi ne erano rifornite soprattutto al contrabbando dalla Tunisia e dall'Algeria. Mentre la via della Tunisia rimane bloccata, quella dell'Algeria rimane aperta e tutto sommato le forze di Gheddafi, che non sono masse di carri armati che richiedono grande carburante, ma sono soprattutto automezzi leggeri e così via, non richiedono quelle quantità enormi di carburante per poter funzionare. Teniamo conto di un'ultima cosa, che l'unità più scelta, che è la 32esima brigata corazzata, non è ancora entrata in combattimento, e la brigata corazzata sembra che sia nascosta tra le case di Tripoli e quindi ben difficilmente colpibile anche dagli aerei della NATO senza creare dei danni, delle perdite notevoli per la popolazione civile. Quindi la paura di molti osservatori è proprio questa, che si rischi il massacro a meno che le forze diplomatiche, i colloqui, questi colloqui così tenuti segreti tra i lealisti e i ribelli appunto non portino a una conclusione pacifica di questa lunghissima guerra e crisi libica. Titoli di coda, non mi resta che ringraziarvi, gentili ascoltatori, per essere stati all'ascolto anche quest'oggi. Il grazie vi viene anche da Riccardo Poli in redazione, che ha confezionato con me questo programma, da Mauro De Angeli, che era la parte tecnica. Un saluto da Giampaolo Musumeci.